fa come io, è una donna, è così, è qua, io ti sono tutto della testa, sai? Va bene, fai come ti fai, ti piace, a me non me ne frega proprio niente. Comunque già si trova la portante, tranquilla, si trova, c'è già la gente all'opera. Poi vediamo chi è, vediamo un po' chi è. A me non interessa chi è, basta che tu non vai a un signore che sono io, perché io se sento una portata, anche se sei tu, non sto a dire chi è, a fare allusioni e robe varie. Ma come tu entri ogni volta di pappa, noi siamo ogni giorno qua, perciò a me mi dà fastidio la portante, mi dà molto fastidio, perché stiamo pagando, oltretutto stiamo pagando, e abbiamo il diritto di modulare, non di sentire le portanti. Tanto che stiamo, guarda, stai chiedendo un paio di giorni, ci voglio ancora, un paio di giorni. Poi vedi come c'è la portante, poi vediamo chi è, lo sputaniamo al baracchino, lo sputaniamo, sia maschio che femmina, capisci? Lo sputaniamo. Ecco, basta che non trovo allusioni a donna vicino qua, il signore quello, il fuoco del maico quello, poi chi è non mi riguarda, la concessione la pago io, ho tantissimi anni, forse più anni di quelli che hai tu. Vabbè, io comunque non ho mai sentito, non so neanche chi sei, non mi interessa chi, non mi interessa neanche sapere chi sei, assolutamente. Non sono di quelli che vanno, io non me ne frega proprio niente. Poi se tu la paghi prima di me, buono per te. Io prima la pagavo, siccome mi tagliavano il cavo, la facevo, pagavo pure la concessione, no? Ma poi non ho attaccato tutto, adesso me l'ho rimesso, mi ho rifatto tutto, adesso vediamo un po' come va. Se va bene, continuo, pago, se no però ne faccio tutto. Ma se ti comporti così è normale che ti tagliano il cavo? No, ma non è gente che non si permette neanche né un CB a tenere sul tetto che non sale, te lo dico io, non sale sul tetto. È gente che disturbava il televisore, non sono CB, perché non ne fanno CB queste cose qua, sarebbe super tagliarmi il capo. Assolutamente no, perché se lo trovo io non sale, tranquilla. Come fanno? Cosa che non le fanno? Tu lascia pure qua, lascia venire e faccio, rubacini. Lasciali venire, fate se ne conviene. Ma non è vero di CB che hanno messo il chiodo, mi chiedo che l'antenna che hanno messo il chiodo. Ma che gli hanno buttato giù l'antenna. A me non me ne frega, basta venire, l'interessante non li vedrà io, l'interessante è quello, poi lo posso anche fare. Però se li vedo io non lo fanno, te lo garantisco io. Che non siamo una da rimani, perciò io baracchino entro, ci rimango quanto mi pare, mi piace, noi la gente entra, ma non sta lavorando, bumba, questo, la gente non ne frega proprio niente, se sto lavorando, se non sto lavorando, io non me lo stanno pagando loro, non me lo sto pagando nessuno, ma pago la tasca mia. Scappa, non mi fate arrabbiare, non in Puglia. Comunque chi è la signora? Se possiamo avere il piacere di sapere chi sia, perché io non l'ho riconosciuta, lo più da questa parte. Avanti, buonasera, e non fate risolvere tantino, dai, che la vita è bella. Oh, c'è Gianni, Rita, come? Sì. Rita, ma ci conosciamo, ci siamo già sentiti noi? Non lo so. No, già che è nuova lì. Basta, roba. Va bene, Rita. C'è stato un malinteso, magari non lo so, non intendeva ancora te Luca, non lo so come sia l'altro, comunque c'è stato il fatto che siamo ormai incarburati, quindi scusa, ci facciamo dei questioni tranquilli, non ho chiesto tu a nessuno, scusa, ha pensato di fare le nostre questioni, e quindi si può capire che c'è uno quando vuole di rilassarsi e poi tornare al lavoro e tutto quanto, siete sia poco che non è il massimo, là. Vabbè, comunque lasciamo perdere, là. Vi siete chiariti adesso, tranquillo. Qua ci sono tanti modi, Gianni, a mettere la porta. La posso mettere anche io, eh? Faccio modulare anche mia madre. Dico, ma schiaccia, io come ne vado in giro. La possiamo fare tutti, già, ma puoi fare anche tu, puoi lasciare la tua moglie per andare in giro in macchina, capito? Ci possono fare in mille maniere, cioè ci può mettere in mille maniere la portante. Perché non siamo stupidi, non sta accusando a nessuno, non ho detto che Rita mette la portante. Io ho detto solo che questo ostacolo del micro mi è nuovo. Perciò, quello che mette la portante, che uno stacca, lui non se ne accorge, o lei chi è? Ah, ce l'ha uguale a Rita, e mi qua chiedo a Claudio e lui ti dice la stessa cosa. Sì, ma tu ieri tutte le allusioni erano a me, perché parlavi a una donna e così, ecco là, ha parlato con me stasera, quindi le allusioni erano a me. È normale che io stavo ascoltando e sono entrata per dire che non ero io. Poi tieni conto questo, che se uno deve mettere la portata, perlomeno bisogna essere un pochino furbi, si adegua, sa che c'è un ostacolo, toglie, no? Ci sono mille modi. Ah, se tu mi stai arrivando 9:30 qua, diciamo non 9:30, tu puoi attaccare anche se sei una donna, non c'entra niente, ma siccome ti avrai un marito, no, il lineare e segnale cambia, come se cambia, non mi piace, non parla più nessuno. Scusa, la signora, forza. Non c'è nessuno anche. Io col fatto che c'ho il microfono, prendo, lo metto abbassato e me lo sono a casa. Comunque, già, Antonio, non posso mica fare cura a nessuno io. Assolutamente. Anzi, non faccio mettere i piedi in testa a nessuno. Forse dobbiamo farsi di un modo, ma non me l'ha sostenuta. Però no, non va bene, non va assolutamente bene. Cioè, approfittasse della gente, lo può fare a uno che c'è due giorni. Vabbè, io non è che ne sappia chissà quanto, però insomma una cucina la so anch'io, poco ma la so. Ma quanto tempo ce l'ha il baracchino? Io ho la concessione esattamente dal 1996. Sono entrato poca roba, ma in quei pochi anni che sono entrato qualcosina, non molto, l'ho capita del baracchino, più o meno come funziona. È sempre meglio chiedere quelli più grandi magari, che hanno 20 anni, 30 anni alle spalle di baracchino. Io sono da poca roba, dal 96 ho iniziato, ma come è anche prima, boh, io non me lo ricordo. Ah, ecco, allora ho capito tutto da qui. Non ho capito niente, non ci vogliono anni e anni a capire tante cose. Lo puoi dire a una persona che c'è due giorni, tre giorni, come tu mi hai detto a me che c'è due giorni, a me hai preso in giro, vedi, stai tu pure Claudio, Claudio, a me non mi avresti preso in giro, come stai prendendo in giro a Luca, non te lo ricordi? Se io stavo scherzando, se tu poi te la prendi per questo, non per questo mi devi accusare di una cosa che non lo faccio. Non ti sto accusando, pure, vabbè, fa come vuoi, Rita, ma guarda, non me ne frega proprio niente, assolutamente. Ti rispetto perché sono una donna, però è arrivato un attimo a tutto. Sono stata la mattina, infatti mi sento male, no? Io entro alla baracchina a divertirmi e basta, sto qua. Pure, se a qualcuno non va bene il mio comportamento, cosa deve fare? Sono pulsantino, hai mettato le penne e spegne, non che sta lì a mettere la portante. Tutto qua, però mi tenete bloccato, ma vaffanna pure, a me che l'ho toccato. Lui, per carità, scusate un attimo, l'importante, 2 secondi, faccio in fretta. Non va più, si è rotto, non va più. Però non mi hanno toccato, non c'è una tribuna politica. Ma che si è andato la volta con Sanso, ma se la bravi, dai. Io pensavo che sia più una pulita. Neanche la santa di chi ci sono queste cose, dai. Fate la pace, non fate la guerra, fate l'amore. Secondo me siete un bel casinizio voi, scusatemi se lo dico. Ehi Claudio, io ieri il numero ne ho fatto. Poi non lo so. Vai da lì, non lo so. Io dico, vedete voi, non Fedalino, vedete voi, comportatevi bene, fate la brava e abbassate le voci, altrimenti continuano a mettere la portante. Ah, abbongere, tanto Claudio, stai tranquillo che stiamo organizzando. Tu vai tranquillo, noi la troviamo. Tu la scommessa, la troviamo, di brutto pure. Tu può fare quello che vuole, la troviamo, perché la troviamo. Poi quello che lì è ci si prende, tutto qua. Claudio. Ma no, la paura, la portata non è valida. Ah, c'è il portatilattarino, è la parte del suo baracchino, dimmi Rita. veramente perché ero io. Ma perché tu hai sentito me dire che eri tu? No, perché ho sentito che insomma tutti quanti eravate d'accordo che la passante era sempre quella. Lui diceva che praticamente era la mia e ho visto che lui sì, insomma quella. Aspetta, due secondi. Guarda che viene entrata Maria Luisa. Quando lo stavo dicendo, cosa l'ha detto lì a me? Ma sta dicendo a me, mia cognata, figurati un po'. Guarda che io stavo sempre ascoltando, quindi... Allora, pure lì c'è peccata, perché? Ma, beh, insomma, adesso... Ma vedi tu, non lo so. No, se io stavo parlando, a parte che non ci sei tu, c'è Teresa, c'è Maria Luisa, c'è la sorella, c'è, c'è la gente. Ce ne sono donne che entrano. Ogni tanto, ma già entrano. Quando sento che di baracchini, di quello, di quell'altro, siccome entrano le va bene, e allora no, non entrano. Oh, io vi saluto, non mi interessano le polemiche, ne ho abbastanza di cacchi mira. Ciao, divertitevi, continuate così che tutto funziona bene. Arrivederci e buon viaggio. Ciao, ciao Claudio. Non ci metta con questo, ma non ho avuto per rompere una scatola, però il baracchino l'ho buttato alla finestra. Esce un po' attimino, se vogliamo questo. Babbo, dai, finita la politica. Anzi, i polemici, avanti Antonio, qua ci racconti tu, anzi, qua ci dici il bello. No, sono stato 25 minuti in un angolo. Vabbè, là, parla tu, io adesso me lo vado a mangiare, va. No, neanche mangiato, sono un bel nervoso qua, per il baracchino. Non è tanto il baracchino, è tanto che lo smittere un po' mi sta rompendo la scatola, come sa apposta se si torna bloccato. Ma Luca, come io non inizio l'isolamento nervoso, mi sono messo un numero dove si possono curare. Sì, ma io non la dico, un malato, poi. Per carità, vado a ripetere la cura. Ai, Antonio. Come? Dimmi. Quanto sei caro, caro. Sta bello. Hai visto che ho dato il coso a Luca, ha fasciato. Cosa hai dato il Twitter? No, per il pezzino, la plastica, non lo so, sta la filmata. Che ti ha fatto? Ti l'ha detto. Tu me l'hai fatto tu, ma Pompo, non è tutto a me, e va bene quello dell'Inter. Quello lì era uguale identico a quello dell'Inter, preciso, c'aveva le righe sopra. E non andava bene, e l'incasso erano diversi. Strano, mi sembra che erano uguali, perché l'Inter 3.40 e le 3.23 sono precisi. E anche con quello del Midland, che io mi ricordo, a meno che non siano incassi le temate più stretti, boh. No, allora, Inter, se lo metti, se lo metti il centone si va bene, però se tu lo metti, se metti il tappo dalle, tipo questo dell'Inter, nel Milan, non va bene, non c'ha gli incassi sui, non va bene, non va, infatti lo stavo modificando, poi ci guardate, quando l'ho chiuso, che non chiudeva bene, cioè usciva bene dal frontale, però ho schiacciato là, lo devo smettere, adesso me lo si è inchiodato. Non va bene, abbiamo buscato un'altra via. Adesso vediamo un po', se riesco a rimediarlo, e glielo cambio tutto. Poi lo farò con più calma. La baracchina non c'entro. Perché sono baracchino a consegni, baracchino a consegni, baracchino, te lo spento, non l'ha giusto, poi una volta che l'ha aggiustato, allora entra la baracchino. A chi si occupa tu, sì, guarda. Mario Baracchi, come lo smettere, era tu. Con 9 minuti di incanto, io glielo guardo, ho avuto il cuore. Ma non lo sapevo, non lo faccio da fratello, ma lei me lo stacca piazzandolo. Ah, allora... non lo so dire. Ma dove l'ha piazzato il trasformatore, Anto? No, venga, pigliami tutto l'apparecchio. Oh, pigliami tutto l'apparecchio, dove ti dice? Perché c'ha... non so se c'ha altri problemi, se c'ha altri problemi, così mi dà anche quel televisore, te lo sistemo. D'accordo, va bene. Ciao, sono voi, se ne vedo io fortunante e me ne ci da culo. Senti, Antonio, mi ci in radio, guarda, senti. Senti, aspetta, aspetta, mi circondi. Non so se c'è altri problemi, se c'è altri problemi, così mi dai quel telefono che non ti fermo. Sì, ma non lo so. Ma arrivi a bomba qua in radio. Lo so, ma io perché quando ero piccolo facevo, mi piaceva fare il tempo, ecco. E invece Pompone è basso, molto basso. il momento è Radio 2, siamo Tommaso in radio. Dunque, per il momento sono Antonio, vabbè, claro, se arriva bene qua, claro, volta arriva a bomba, vabbè, anche Gianni, dopo non c'è più scarsino di radio, date una mossa, segnale buono, già lo sai, è un bel forte, ora la radio è molto bassa. Antonio, ma non te ne sei chiamato l'alimentatore? Perché non ho scritto facendo con l'alimentatore. Ma non c'è l'illuminazione, però sei basso nel radio. Basso? Aspetta. Sì, ma non ci parla con il microfono in bocca, allontanati e vai il guarello. 1, 2, 3, 4. Ecco, adesso vai meglio, vai abbastanza bene. Prima però facevo fatica perché Luca era alto, Gianni era alto, tu sei basso, le volte mi toccava stare con questo volume a far fara. C'era una signora, facciamola riprendere. Avanti. Signorina, non so. Luca si è fatto la trovare, ha chiuso e ha spento il tutto. No, c'era con me, tu. C'era con me, ma io non sono triste. No, non lo so, non ho sentito anche come si chiamava. Poi culo, Rita. Ah, signorina, signora Rita, venga avanti se ancora l'ascolto. No, niente da fare. Ti volevo dire altro che televisore e... ti racconto tutta questa cosa, ma l'ho regalato. Capisco, non me ne frega niente, avevo capito già il transistor, prima la, andava in corso, fusibile, ho capito il transistor, il fusibile l'ho trovato in corso, però non accede, è tutto via. Papa! Scusa, quell'altro invece, l'uomo con l'altro le AT, capito, e rimane la freccia verticale bassa al centro. La freccia verticale bassa al centro, non la più verticale? Il finale non si può il verticale. Allora con il finale, o il finale o con il condensatore che c'è lì vicino, oppure una resistenza, perché io il pilotaggio del verticale, Antonio, lo prendo dal trasformatore di riga, con il 12. Oh, che mi come guardare di quelle influenze, di quelle scarpe di televisore, tanto cosa? Ce ne ha due influenze, una è quasi parlare dall'altra solo. Ma sicuro diciamo, interrotte sono quelle che mandano il pilotaggio, perché il finale di rombo, il finale verticale non, anche se è alimentato, non lavora se non arriva il pilotaggio dal trasformatore di AT. Esatto, loro sappiamo pensavo il valore con le influenze, con i fondi, una all'altra. Magari hai già visto, non mi costa niente, perché lei non c'è. No, ma la chiamata sono io per provare il 2 di licenza da 10 ohm e lo provi. Tu vedi un po', se li metti in verticale, non trovi per tutto, viene di luce, viene metti da un ohm, da 1,60. Sì, beh, tutto così. Questo è il lucro, è il culo. Non so come è, no, dove sono i passerato per chi? Ah, ma basta, ma c'è come un beato, invece. Non tocca passare, non parla a tu, io mi metto in paragonina. Già, mi ti sei dato il baracchino. Tanto non parlare, il microfono è di male, andare. D'accordo. Ah, sono io, la mamma matta che faccio portare il Kenwood. 300 euro, se lo vuoi 3 euro. Ah, ma quello nuovo, esattamente. Nuovo, dico, mamma matta, il Kenwood e il microfono a tavola, da bitavola. Ah, no, è andato al suo punto, qui sono rifatto il tornado, qui sono il Kingfoot, là per stessa, non mi ha fatto il Kingfoot, baracchino male, non prende a colpi, ma secondo me sono baracchini che non prende a colpi, non esiste, e allora ci usiamo questo qua, mai un 40 canali mi prendo, basta. un brutto? Brutto? Sarebbe brutto, cosa tu? No, è bello, guarda. Sto tanto biondo con gli occhi azzurri. Ma io dov'è? Zero, cosa è questo invece? Ecco, quanti canali ha? Umbe. 281, mia. Mi ha fatto due pure, tu. 150 euro. Ecco, a colpi come è messo? Colpi non è prendere. Ma se perché? Lui è forte, si sa difendere. Adesso andava, 150 euro. Cazzo, tu dove hai detto? Ascolta, il microfono c'è, normale. C'è un microfono originale. Il tavolo non ne hai, di legno. No, ne ho uno di tavolo, ma non lo so. Ah, non ci va a mangiare. Un tavolo più 2B, ma quello mi serve, perché quando faccio le prove. Andava. Boh, vediamo tu, dai. Brutto, la grandezza più o meno quant'è? Quanto è grande? 4.9, 4.5. Andava, dai. Dunque, più o meno ha le stesse funzioni, o ne ha di più quello? Ma non ci vuole mai mettere la rimossa, perché questo qui è 21 watt, Sì, grazie. E dai, ma l'ho dato a comprare. Grosso quanto? 20? 15? 10? Quanto? Vabbè, un 10 ampere, se non c'è una colina a scatola, non dice 14 ampere della GBC. Non troppo vuoi. Io te la faccio 50 euro l'alimentatore. Quanto lo stai vendendo? Ma buono, ma gli strumenti pure? No, non ha strumenti, questo qui è l'uovo per le scatole, Ma hai detto 10, 14? Sì, 10 ampere fissi e 14 di picco. Adesso vediamo, ora. Vediamo, perché ne stiamo proponendo altri. Abbiamo uno Claudio bellino, lo stesso, però quello ha gli strumenti, illuminato. Adesso vediamo, adesso, dai. E lo monto. Scappa. Lo so, io ne ho uno misero, ma quando non parlo si abbassa la luce. E anche io quando parlo qua mi sono per contare fuori, ma poi sono problemi. Cazzo. Andare. A curire. Hai capito lo scizzo? Che scizzo, eh? 34, 35, hai capito? Ti faccio abbracciare il proprio di mano. Hai capito? Ti chiamo i carabinieri. Allora dobbiamo vedere questa faera però. Oh? Questa faera, dite bene il nome. No, era del 606, non mi sono uscito a 48. Sì, già pronto l'ore, poi questa faera te vedo. Non c'è problema. Sono solo una guida, io la faccio una trovata, mi sono una guida con la farina piccolino che va dentro la slitta, hai visto che su questo momento c'è le slitte nei fianchi. Lo so, dovevo cercare in campagna per segnare quella roba, metto di sì comunque. Ma stessa amica, perché mi avevo messo in una macchina, mi serve la staffa, Antonio, te la bago, non c'è nessun problema. Ho già bella frutta, in campagna l'ha fatta, se vuoi ti ho anche quella fare per regolare il radar, ti serve. Tu mi dici, te la però me la mai aiuta. Mi hanno dato un'altra volta la roba, lo stai dicendo, ma ti ho fatto vedere il tasto, mi hanno detto che ti fai, dovevo dare anche quella gesto per sbloccarmelo. Solo che si è visto che per qualche mese sta chiaro e tu anche tanto. Antone, con la chiesa per sbloccarti non te l'ho detto che è problema c'è. Lo so, ma siccome c'è la carta bloccata io, questo non lo posso usare. Ti posso provare ma non ti posso garantire niente. In alcuni è andato bene, in altri non è andato per niente. Se va bene, va bene, se non va bene, ti capisci il culo e gli faccio fare il volo. Ah, bene, al limite, te lo vedo. D'accordo. Luca. Sì, no, sto cercando la... Il telefono è strano. Sto cercando la registrazione, però non me la dà. Si cancella. Ma dice la però che è lui. D'accordo. Guarda, un po' se me lo rimedi tu, sto giù niente. No, io sto travelato, lo sai. Guarda, se lo rimedi da qualcuno, boh, vedi un po'. risposto c'è la malattia, non funziona nel bruciato, ma la perfetti, devo fare come, non me la putti nulla. Bisogna trovare tale di Rossi, c'è un FM 500 trampato e poi c'è un H23 che era il mio. Non l'ho più visto. Le lune palattine le tutte. Lo cerco, se lo trovo, e così gli faccio disponire il coso per e te lo faccio guardare, tanto lui se ne fa niente, ma io lo sto pensando. Vedi tu. Vedi tu, allora. Sa fare. Se no cambio tutto della sala che svia. Poi si stara. Almeno. Ma era già la prima che aveva problemi, era la prima, si bloccava, infatti ho dato un colpo, diciamo, lo picchiavo, diciamo, un colpo noioso, no? Bravo. Niente, non si andava, guarda, ho dato un colpo di cacciavite sul vetro, ma leggermi, pracca, ti è spaccato tutto. Lo so. Ciao Stefano, mi fai di più. Ciao Antone, ciao. Come mi ascolti con l'alimentazione? Bene, bene. Benissimo. Sono contento. Se metti uno magari un amplificato va ancora meglio. Non è amplificato, tu hai qualche amplificato di soluzione che fai? Gianni. Io sì. Gianni. Grazie Luca. Cosa mi chiedo te? Sì, già ce l'ho amplificato. Già ce l'ho, te lo do. Se lo troviamo. Ah, gli avevo già detto a Adriano, i controllati quelli, queste cose qua. A vedere perché non salivo, adesso già lo controllavo. Andava. Va bene, quindi questa è la sua di alimentazione sul baracchino, no? Sì, è solo di alimentazione. Oh. Senza fatti tutti però c'è tutti negativi, non capisco perché. Non lo so, non ne ho idea. Io lo faccio controllare Rihanna, in sicurezza, se magari è roba di decorazione adesso, se lui già lo conosce questa palestra, l'ho già usato, uguale. Ma già Antonio, sto chiedendo, devo fare... Sto uscendo, dai, ci sentiamo... Magari ti faccio la bassa domani, dai. Va bene, non c'è problema. Ciao, ciao. Ciao, mi piglia Luca. Luca. Ehi. Che presa? Non c'è rimasto più nessuno. Fondo, come si cancellano. Fondo. Ma chi è rimasto? Antonio, è Gianni o qua? Tutto bagnè. Hai capito così? Mi sento, eh? 4, 7, 5, Ma si cancellano.